io sono di press in line, non mi piace altra definizione, che è l'etichetta storica di Lucio, che è l'etichetta che ha accompagnato tutta la sua carriera sotto diversi nomi, da Terra di Gaibolla in avanti, e che ancora adesso cerca di recuperare, di mettere in sicurezza e di mettere a disposizione dei suoi supporters, dei suoi affezionati ascoltatori, tutto il materiale che Lucio fortunatamente ha prodotto. E sono qua per quello, per raccontare qualcosa di quello che è successo dal 2012 in avanti. Perché sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni. Che volano, però mi sembra veramente incredibile che siano passati già 10 anni. Così, 10 anni. 10 anni senza Lucio. E mi hai dato un pezzo da suonare e vorrei suonarlo subito, prima ancora che Leonardo prenda la parola. Sentiamo, perché secondo me questo veramente merita, e non so in quanti lo conoscano. Eccolo qua. Siamo qua, Daniele? Negli anni 70. Anni 70. Anni 70. Diciamo che quello è più o meno il periodo, questo è Lucio e loro sono gli idoli. Gli idoli. Gli idoli. Leccardi, Cabassi e Manoli, che era il soprannome di Ardemagni. E sono un gruppo che ha accompagnato per un lungo periodo Lucio in una fase, in questa fase, dove lui con una voce che è uno strumento accompagnava queste serate live che lui faceva in questo meraviglioso inglese che non conosceva e in questa lingua infatti, che lui gestiva in questo modo. Ma perdona la mia ignoranza, dunque qui siamo dopo 4 marzo, dopo Sanremo, giusto? Ma, prima del... Siamo prima. Siamo ancora prima. Okay. Questo è un album che è uscito per volontà di Lucio nel 1991 in versione ridotta rispetto a quella che abbiamo noi fatto marzo 2021, con una copertina disegnata da Massimo Osti, e Lucio lo chiamò geniale. Qualche anno fa trovammo, tramite la disponibilità di Giorgio Riccardi, nastri originali di quel periodo, facemmo la scelta di provare di pubblicare anche tutto quello che a quel tempo non era andato nella prima scelta. Quindi Lucio, abbiamo ripristinato esattamente il primo CD come Lucio l'aveva fatto e come l'aveva pensato, e abbiamo aggiunto una quindicina di tracce, adesso non ricordo, 13 tracce, che grazie alla mano di Biancani e alla scelta artistica o tecnica di Paolo Piermattei, siamo riusciti assieme a Sony a pubblicare in questa forma. È incredibile, cioè, questo è Blues for Tobia, che è un omaggio a Tobia, che Lucio in quei tempi era già con Lucio in quei tempi lì. Ho capito, hai capito. Volevo anche specificare che questo rumore che sentite, che sembrano dei gatti che si lamentano, è la sedia di Santoli che è un po' nervoso, non so perché non ti abbiamo ancora dato la parola. Leonardo, cosa ci racconti tu di Lucio? Tu quando hai conosciuto Lucio, intanto? Allora, la prima volta, grazie a Roberto Serra, che è il fotografo di Iguana Press, e grande amico, cioè allora giovane, ed era un mio compagno di Accademia di Belle Arti. Okay. Eravamo tutti e due da Concerto Pozzati, e lui mi indicò, io stavo facendo un lavoro fotografico, disse, ma mi piacerebbe fare delle cose così, e mi aveva dato l'indirizzo quando stavo in Via delle Fragole, che aveva una ragazza somala, mi sembra. Credo Luis, no, adesso. Nome, no, me la ricordo. Che era al quinto piano, no? All'attico. All'attico. E mi presentai lì, che ero un giovane studente, e da lì chiedendogli se potevo fargli delle foto così. Uh-huh. E dopo, siccome lui avevano tutti orari che lavoravano la notte, insomma, fra l'una e le due di notte, anche le registrazioni e l'altro, davo appuntamento alla trattoria di Avvito, che è un ricordo anche di Paolo, che è deceduto la scorsa settimana. E lì poi io ho finito l'accademia o altro, non ci siamo visti, ci siamo rincontrati per strada un giorno, che era con Angela Baraldi, prima alla mostra di Ontani alla De Foscherari. Okay. Quindi tanti anni fa, e lui chiedendo, ma tu cosa fai? Faccio il pittore, eccetera. Gli ricordai, ma ti ricordi? Lui, sì mi ricordo. Non sappiamo mai se era una bugia o una cosa, come era Lucio. E mi dette un appuntamento alla trattoria da vita all'una di notte, venne con Ron e venne in studio, quando avevo lo studio in Via del Pratello, e di lì cominciò a comprare, mi comprò un primo grande svolta, quadro, non sbaglio. E poi alla mostra della personale che fece a Palazzo Massari, a Palazzo Diamante a Ferrara, lui venne. Io sapevo che scriveva sul Corriere della Sera, scriveva qualche articolo, qualcosa, e gli chiesi, Lucio, scriveresti? Anche lui mi disse, quel quadro è mio. E quindi disse, sì, va bene, te lo proprio. E disse, senti, ma perché non mi scriveresti una cosa sul Corriere, un articolo sui quadri? E lui disse, scusa, io sono un musicista, ti faccio una canzone. Infatti mi fa piacere essere qui con Daniele stasera, che ne parlavamo, no? Perché con Lucio mi costruì una canzone sui quadri, facemmo tutto un lavoro nello studiolo, e venne a fare tutte le fotografie Roberto Serra. E di lì poi ha composto una musica di 6-7 minuti che non vedo l'ora di portarla a Daniele. Non ci hai portato a Radio Città Fujiko, e dunque non l'avevo perché è troppo uno scoop questo. Sì. No, ma era un ricordo così, e mi piacerebbe proprio certo, direttamente agli eredi, insomma. Facciamo. Perché tu invece, Daniele, tu sei cugino, giusto? Io sono figlio di Luisa. Luisa. Mia madre era, perché qualche mese dopo la morte di Lucio se n'è andata anche mia mamma, e era una degli otto cugini originali della famiglia. Poi nel tempo, quando morì Lucio, erano rimasti solamente in cinque, e mia mamma, come ho detto, qualche mese dopo Luisa se n'è andata, ed è la sorella di Dea Melotti, che invece è attiva e presente all'interno di tutte quelle cose che abbiamo fatto in questi anni. E quindi io sono proprio parente, certo, diciamo, faccio parte di quel gruppo di parenti sconosciuti che nel 2012 furono catapultati in questa, in questa che non deve essere stato facile, non deve essere in questi, io pensando che sono 10 anni, io mi ricordo come se fosse adesso la mattina che mio cugino Simone mi chiamò dicendomi guarda che Lucio se n'è andato, dico, e da lì è cominciato un percorso anche folle per certi versi, perché ti sei trovato in un mondo, catapultato in un mondo che non conoscevi, circondato da un alone di diffidenza molto molto importante, che piano piano molto siamo bolognese riusciti, magari anche molto, ma in generale siamo riusciti a scardinare. Io credo che e queste le cose fatte in quest'ultimo periodo, la mostra che partirà venerdì mattina, parleremo anche di quella, lo speciale che uscirà domani, insomma l'attenzione che è il riconoscimento alla serietà di 5 cugini, perché io parlo come se fosse mia mamma, cioè non, io e mio fratello abbiamo sempre fatto tutto quello che credo mamma avrebbe gradito, e che 5 persone mi piace definire normali, normalissime, 5 pensionati si sono fatti carico di un impegno enorme, perché Lucio è un impegno enorme, una gioia enorme, una gratificazione enorme, ma un impegno enorme, perché probabilmente nemmeno chi era accanto a lui si era in quel momento reso conto di cosa avrebbe scatenata la morte di Lucio in quel modo, le 70.000 persone a Bologna, l'attenzione dei media, e sono 10 anni e non è cambiato niente, perché prima cosa Lucio ci ha dato una quantità enorme di materiale sul quale si può lavorare, e in più l'attenzione della gente, l'amore, la passione. Noi abbiamo fatto quello che potevamo, credo che abbiamo fatto buone cose, forse si poteva far meglio, però credo che abbiamo fatto buone cose con un grande impegno. C'è ancora tempo per fare meglio. Sono i primi 10 anni. Ti volevo proprio chiedere, infatti, rispetto al materiale sonoro, cioè avrete un archivio notevolissimo, e presumo che ci sia ancora cose da tirare fuori per il pubblico, o sbaglio? Guarda, quando è successo, Lucio stava pensando di pubblicare un brano, un album, quindi c'erano 4-5 tracce più o meno finite. Ah, ok. Alcune le abbiamo già in parte utilizzate, perché è andato in C'è tempo di Veltroni con una traccia praticamente che inedita, che è stata utilizzata per una 40 secondi. Ci sono altre, ce n'è un'altra secondo me molto bella che pensiamo di poter utilizzare per gli 80 anni, per il compleanno, perché ci piace pensare che gli 80 anni di Lucio saranno una grande festa, e quindi vorremmo spendere quella che è l'ultima per il momento e che conosciamo noi traccia inedita che è rimasta. E la cosa che abbiamo sempre cercato di fare è che abbiamo sempre aspettato l'occasione giusta per pubblicare quelle 4-5 cose che Giù ci aveva lasciato. E geniale, credo che sia una di quelle occasioni giuste. Sanremo con Rosalino è stata l'occasione giusta, poi Rosalino ci ha messo tanto di suo, e credo che Rosalino sia il testimone più affidabile, competente, che si possa pensare di affiancare al nome di Lucio. E io mi ricordo ancora quando noi gli mandammo la traccia originale, lui in 3 giorni fece uscire quel capolavoro che poi è andato a Sanremo, e mi ricordo che lo chiamai e lui mi disse guarda, mi è venuto distinto, e poi mi disse mancano ancora gli archi che gli fece fare non so da chi, e quando andammo a Sanremo, se vi ricordate, la critica fu esplose, l'attenzione, il riconoscimento, la gratitudine, e queste sono come hanno ci hanno sempre spinto a fare sempre di più, sempre e sempre e sempre di più. Io sono figlio di Luisa Melotti, la cugina, una delle cinque, delle quattro cugine assieme a Lino di Lucio. Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, senti, lascia suonare, lascia suonare. Così 333 180 94 94, se volete lasciare un messaggio o chiedere qualcosa a Daniele o Leonardo. È una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Puoi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica, che apre a tardi e non chiude più. Ancora quel profumo e poi venite giù. Sai, io vorrei che quest'estate non finisse mai. Ho una rumena un po' polacca che sembra una degli abuani. Faccia bene, dottore, che ho paura. E ho mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica. Con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ. Quest'anno sono un po' più grasso da quando non sto più con lei. Più, vai più forte. Andiamo giù. Dai, facciamolo di notte, che non c'è nessuno e non lo facciamo più. Che cos'è che passa lì nel cielo? Un aereo o una meteora? Se c'è qualcosa che viene giù, è una neve metafisica. E a domicilio. Intanto mi stavi raccontando un sacco di cose interessantissime, su Lucio. E adesso avevo una domanda che mi è l'amore di Lucio per l'arte, da dove arriva? Lui, cioè, secondo me, cioè, lui aveva proprio due grandi amori e passioni. Mm-hmm. Uno il cinema, che lui era proprio, cioè, chiunque lo vedeva, anche io mi ricordo, se uno lo bloccava: Lucio, bellissima quella canzone, ah, bella questa, bella l'altra, lui sì, grazie. Se tu dicevi: Lucio, ieri ho visto un film particolare o bellissimo, lui stava lì delle mezz'ore a parlare di cinema e di arte. Lui mi aveva raccontato, quando avevo cominciato un po' a collezionare così, lui raccontò che già dai primi concerti che aveva fatto in Germania, lui parte del ricavato dei soldi comprava e aveva questo amore smisurato per gli espressionisti tedeschi, Grotz e altre cose. Poi io mi ricordo, cioè, nella casa, quando aveva in via Rolandino così, aveva Carlo Rama, poi era amico di Untani, perché penso che il fotografo che aveva fatto tutte le foto, no, di Untani, delle cose. E poi nel tempo, cioè, a parte questa collaborazione, no, che dall'88 così, 90-91, dopo entrò, no, ho fatto la collaborazione con Palladino, penso con Enna, no, che fece la copertina. Può essere. Penso, da lì cominciò questa. Ma poi aveva anche aperto una galleria, giusto? Sì, cioè, dopo il No Code. Il No Code era sua. Io me la ricordo. Sì, che era gestita da Rizziero, no? Esatto. Da Ricky, penso, Ricky Rizziero. Noi abbiamo l'insegna. Del abbiamo ancora l'insegna del Fantastico. L'abbiamo mandata a risistemare perché era un po' sofferente. Però abbiamo recuperato. Che poi era una galleria, no? Che partì con Cunellis. No, infatti. Cioè, partì con Cunellis, ma la cosa bella è quando c'è l'intervista. Intervistano, no? C'è Lucio che parla della Galleria dello Spazio e c'è Cunellis che porta le sculture dietro, come che era un ragazzino. E mi ricordo nella casa in via D'Azeglio, in cucina, no? Passo in cucina e vedo il Cunellis che gli aveva dato un pezzo Cunellis e c'era un mazzo di fiori. E quindi gli ho detto io: a cavolo, ma Cunellis fa: no, no, i fiori li ho messi io. Perché lui amava. Caricare, no? di cose sue, di oggetti, tipo con Untani c'è una mia scultura tipo di un imperatore classico, quella d'oro, e lui gli aveva messo la collanina azzurra, no? Una collanina e io gli ho detto: ma Lucio, ma quella fa, ma come la trovi? Dico: è perfetta, sta benissimo. No, lui aveva proprio. Io ho trovato nei miei archivi invece in realtà ho cominciato a fare radio 10 anni fa, ma poco prima ero all'interno di questo progetto che si chiamava Aelia Media e uno dei nostri collaboratori ha incontrato Lucio ad Arte Fiera. Allora gli ha chiesto com'era Arte Fiera quell'anno. Arte Fiera, 27 gennaio 2012 è il nome del file. Devo dire, io poi sono un abitué, stando a Bologna ogni anno vengo, devo dire che a differenza delle edizioni passate mi sembra un po' più pensata, un po' più meno piacevolmente caotica come era prima, per cui poi sono molto amici, sono amico di molti artisti, li sto incontrando, sto vedendo le cose che propone, c'è un'area diversa, positiva, mi piace quest'anno, ecco. Un'arte fiera con aria positiva, fortuna che non ha visto quelle subito dopo, perché l'anno successivo era già un disastro e poi da lì è peggiorato tantissimo la faccenda. Poi, quello, se non sbaglio, questo fu l'ultimo anno di Silvio Evangelisti, se non vado errato. Sì, ma lui poi, a parte che era un rito, no? Lui in arte fiera, certo, comprava tantissimo, ma mi fece uno scherzo una volta, perché ci incontrammo casualmente in arte fiera e mi fa: Pitte, perché lui mi aveva battezzato Pittorino, no? Pitte, quindi tutte le volte, anche quando ho collaborato con Carboni, anche Carboni, quando nel disco vai a vedere c'era un santo di Pitte. e fa vieni su, che vieni accompagnami. Quindi io ho detto va bene, vengo su, mi porta nello stand di Paludetto, di Franz Paludetto, e fai conto che allora c'era di fronte, penso lì a Rumma, cioè tutte queste grosse gallerie, e arriva, fa ti piace quel quadro lì? Ed era un grande mondino, che penso sia quel mondino con, che assomiglia un po' vagamente a quello col bastone, no? Quello grande. E fa sì, dico io, sì sì, dico io, dico va bene. Allora vedo Paludetto gli porta un tavolino con la sedia davanti al quadro, lui si mette seduto, allora io capisco che gli stava facendo l'assegno per comprare il quadro. Dico Lucio, scusami, aspetta che mi allontano, vado via. No, stai qui. Quindi io sono rimasto lì, e lui firma l'assegno, ricordo che era anche una cifra abbastanza importante, con tutte queste grandi gallerie che guardavano. Ecco, dal giorno dopo ho cominciato a telefonare, che mi dicevano ma guarda, io ho 20 mondino, ho 20 cose, come artista mi ha rovinato con tutte le grandi gallerie, perché... E dopo gli ho detto Lucio, ma scusa, sembrava che ero io che gestivo, aveva fatto tutto lui, capito com'è? E lui li faceva questi scherzi. No, infatti devo dire che anche il curatore della mostra, che adesso ci siamo incontrati alla conferenza stampa di questa mostra, che poi adesso ne parliamo un attimo, che inaugura venerdì, fra l'altro tu non sei stato, non hai avuto parte nella preparazione della mostra, soprattutto la fondazione, perché la fondazione, esatto. La fondazione. Perché voi di famiglia vi siete un po' divisi, da una parte ci sono alcuni che si occupano della fondazione, parte, esatto. E tu invece... Io ho fatto quella scelta qua, che non so se è stata una scelta cosciente, di occuparmi praticamente da sempre dell'etichetta. E non lo so perché, che non è che io... Hai sentito il bisogno di continuare? Non ne ho idea, non me ne sono mai pentito, anzi sono... molto contento della mia scelta, spero che lo siano anche gli altri, che qualche volta al dubbio me lo metto, però ecco, io ho cercato sempre di mi sono sempre occupato di quella, cercando sempre di coinvolgere progetto per progetto chi quel progetto l'aveva pensato, ideato, ragionato assieme a Lucio, senza mai pormi il problema del perché comunque non era arrivato fino in fondo quella cosa, di che cosa poteva essere successo, perché erano questioni che non mi competevano. Adesso abbiamo appena sentito Starter, è un brano del 2010, se non mi sbaglio, un brano che di Tullio Ferro, fantastico per quanto riguarda sicuramente, anzi addirittura forse il brano, no, adesso 2010, ma io non mi sono mai posto il problema del perché non fosse stato pubblicato a suo tempo. Non è cosa che mi era dato di sapere, ma neanche era, penso, interessante. L'importante era recuperarlo, finirlo e metterlo a disposizione. E su questo percorso vorrei fare una cosa che non faccio mai. Vorrei ringraziare Sony Music, perché non hanno mai lasciato perdere un progetto che gli abbiamo proposto, e come è stata tutta la carriera artistica di Lucio, che a parte qualche leggero periodo, qualche piccolo periodo, è sempre stato all'interno di questa major. Noi abbiamo continuato, abbiamo fissato un accordo, continuiamo a lavorare con loro, è un'enorme disponibilità. Non avremmo fatto tutto quello che abbiamo fatto se non ci fosse stata questa disponibilità. E dunque quanti dischi avete prodotto da quando Bella Lucio, Geniale, abbiamo collaborato in Starter, abbiamo collaborato nelle legacy degli album che sono usciti, perché c'è stato un periodo, all'inizio venne fatta la trilogia che riguardava i tre album di Roversi, e lì se ne occupò Sony direttamente. Quando invece decidemmo di mettere mano a quelli che sono stati gli album come Fronde in Mare, Dalla e Lucio Dalla, lì noi facciamo un lavoro di ricerca su brani mai pubblicati, e nelle Legacy ci sono due supporti, uno il classico, che poi adesso Sony fa in una maniera tecnologicamente molto più avanzata rispetto al 70, come che è l'anno di datazione dei progetti, e noi abbiamo recuperato, non so, cioè mi ricordo che ci sono tre versioni di Come profondo il mare, tutte completamente diverse, e se uno ama quel brano abbiamo pensato potesse essere, potesse piacere proprio questa opportunità. È tutto live, tutto quello che abbiamo aggiunto, tutto live. Fantastico. Quindi è già una cosa anche questa. Io per l'occasione ho preparato un sottofondo musicale tutto di Lucio, no, o non cantare, cioè comunque senza tutto quello che ho trovato, senza parole. E adesso vi devo un po' interrompere per questa cosa che si chiama l'angolo della menzione, dove in realtà parliamo di Lucio di nuovo, a parte la mostra che apre domani, che è la mostra su Pierpaolo Pasolini, che si intitola Folgorazioni figurative. Pierpaolo Pasolini è nato a Bologna 100 anni fa. Seguiamo la traccia che Bologna ha lasciato nella formazione di una delle anime più profetiche del nostro Novecento, dalla nascita il 5 marzo 1922 in via Borgo Nuovo, agli anni del liceo e dell'università, con un maestro come Roberto Longhi, che plasmò lo sguardo di Pasolini e lo instradò verso una passione, quella per l'arte figurativa, che lo accompagnerà lungo tutto il suo poliedrico percorso creativo, una vera e propria folgorazione. Da qui prende le mosse la mostra, appunto, Folgorazioni figurative nei nuovi spazi espositivi del sottopasso di Piazza Reenzo, dal 1 marzo al 16 ottobre 2022, un percorso per scoprire come le grandi opere della storia dell'arte si siano innestate nel lavoro cinematografico di Pasolini, in un dialogo senza fine. E la mostra, appunto, è nel sottopasso di Piazza Reenzo, e trovate tutti i dettagli su cinetecadibologna.it. Dopodiché abbiamo naturalmente la mostra di Lucio, che si intitola Anche se il tempo passa, che inaugura il 4 marzo 2022 al Museo Civico Archeologico e sta su fino al 17 luglio. La mostra è curata da Alessandro Nicosia con la Fondazione Lucio Dalla, ed è il frutto di una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l'intero percorso umano e artistico di uno dei più amati artisti italiani e internazionali, che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, dello spettacolo e della cultura. Oltre 10 le sezioni in cui è suddivisa l'esposizione, insieme ai documenti, tante foto, filmati, abiti di scena e altri aspetti che ci raccontano la sua vita, l'arte e le sue passioni. Per capire meglio il risultato finale di questa importante ricerca e esperienza va sottolineata la sezione Universo Dalla, con decine di foto del maestro, con tanti personaggi della cultura, i più importanti cantanti, tantissimi collaboratori che lo accompagnarono puntualmente nel suo lavoro. La mostra, appunto, è su fino al Museo Civico Archeologico fino al 17 luglio, inaugura venerdì, e troverete tutto su www.mostraluciodalla.it. Naturalmente anche Leonardo, ci sei in mostra o non ci sei? Naturalmente no, non lo sai nemmeno, fantastico. Però tu ci hai portato dei documenti interessanti, tra cui questo catalogo dove c'è una canzone che lui ti ha donato. Sì, dura sui 7 minuti e non sono... la ascoltiamo perché non ce l'hai portata, per cui... No, sono felice, insomma, di poterla farla sentire a Daniele, visto che sta andando a ricercare, no, delle chicche o delle cose così. Lui è... Questa musica sono tutti dei anche vocalizzi, perché era un lavoro fra pittura e musica. Io in quel periodo che facevo parte un po' del gruppo degli Arcaici di fine secolo, avevo appena smesso, ero uscito dal gruppo, e mi aveva chiamato ad una mostra nell'86 Alessandra Borgogelli, che salutiamo, che salutiamo, e una persona che devo tanto anche da un punto di vista critico, no, artistico, così. E lei se fece, organizzò questa mostra da Studio Raffaelli prima a Trento, dove venne un giovane che era maestro allora, io credo fosse maestro, non era, era Danilo Ecker, che venne a Bologna e andammo assieme in casa di Lucio, dove facemmo questa intervista che poi lui pubblicò sul, sul giornale di Trento. E in occasione dell'uscita della mostra, lì in quell'occasione Lucio era impegnato in un concerto, non venne, però poi si replicò la mostra alla, alla galleria Andrea Murnik di Milano, che allora era una fucina di, cioè, esponeva artisti concettuali all'avanguardia, così, e sempre presentato dalla, da Alessandra Borgogelli, e lì Lucio venne e facemmo sì in tutte e due le gallerie la musica di sottofondo. Lui era una musica che aveva fatto nello studiolo, quello di Via D'Azeglio 42, eh? Via D'Azeglio 42. 42, dove si entrava, che poi da dietro aveva il parcheggio della macchina, sì, no? Del, ma... e da lì insomma hanno fatto la serie, ci sono i cataloghi, una musica di sottofondo per una mostra, no? Sì, bella, perché nacque da quella mostra dell'87 alla, a Palazzo dei Diamanti, no? E in cui io gli avevo chiesto un pezzo sulla mostra lì e lui mi aveva detto no, ma io faccio il musicista e quindi e poi dopo nel tempo tu da, da bravo approfittatore volevi apparire sul, sul Corriere della Sera, invece, e invece ti sei cuccato una canzone appositamente per te da Lucio Dalla, voglio dire, ma quante persone possono dire una cosa del genere? No, io penso, molti pochi, io penso forse nessuno, nessuno, dopo non credo, forse, forse Paladino, ma non so come. O forse, però sono impaziente di far sentire a Daniele. No, no, che sono episodi interessanti, perché in effetti a me quello che ho letto poi, perché poi io l'ho incontrato una volta in Via D'Azeglio e gli ho dato una copia di Oxlade Chin, naturalmente, sì, sì, come faccio con chiunque, ma però sì, devo dire che... Ma lui davvero nell'arte era curiosissimo, perché anche alla fine, quando, alla fine, insomma, anche nel periodo qualche anno prima... Così, per esempio, mi ha fatto vedere questi grandi quadri di un artista che si chiama, lui si definisce artista artigiano, no? Che è Davide Baroggi di Pavia. Se tu lo vedi, è un tipo un uomo selvaggio, fra virgolette, che, infatti... che ha, fa delle cose che però ti incuriosisce, no? Come? Perché era un periodo in cui dici, lui si spinge, fa Cunellis, fa questo e l'altro, poi ti trova, non so, il pittore che proprio sporchi i pennelli, perché lui diceva io amo quello, però fa, io infatti qualche io tempo amo... fa ho letto questo libro che raccoglie tutte le cioè moltissime interviste che hanno fatto a Lucio, e devo dire che una delle cose che salta fuori bene è proprio questa sua sorta di orizzontalità, no? Il trattare tutti nello stesso livello, come se tutti, cioè il fatto di dare un po' di spazio a chiunque, no? Molto warholiano questa sua idea, in effetti cioè, è una cosa che non molti artisti hanno, no? Questa curiosità appunto di andare magari appunto a scoprire un pittore artigiano, cioè un pittore autodidatta, e trovare dell'energia anche in questo, no? Sì, che poi è strano perché pittore autodidatta, ma poi ha studiato all'Accademia con Olivieri, quindi cioè, è anche particolare. Ecco. Poi però di così c'era Berruti, aveva preso, cioè lui per un periodo, poi se amava un artista o altro, no? Ne prendeva una serie e poi continuava come. Poi noi abbiamo avuto un momento in cui c'è stato un po' di rottura negli anni, quando ho cominciato a collaborare con Paladino, però sarà una cosa che ma sì, probabilmente. E poi ci siamo riavvicinati molto dopo qualche anno, ecco, in cui lui dopo mi ricomprò delle cose, anche perché gli artisti italiani sono molto bravi a spingere lontano gli altri artisti rispetto ai collezionisti, no? Cioè, questo è adesso forse raccontiamo una parte del mondo dell'arte che forse è meglio che non si sappia, però in effetti artisti che accoltellano nella schiena altri artisti, quelli sempre, ma in tutti gli ambienti. Sì, no, infatti. Poi anche se tu non lo vuoi, però uno cioè non è che ti capisci come mai, no? Sì, sì, a me l'altro giorno mi hanno detto che un artista ha parlato male di me, cioè, e non ci vediamo da 20 anni, per cui dico, cioè, evidentemente, ma è così. Forse ha una grande memoria. Forse ha una grande memoria, esatto. Forse ha solo una grande memoria. Senti, invece, volevo far sentire un pezzo da... Io qua ho Una lacrima, oppure tu mi dicevi anche... l'altra, aspetta, dov'è che è? Solo per me. Quale vuoi sentire? Guarda, Una lacrima. Poi dobbiamo anche spiegare che cosa è sono. È un pezzo che mi piace molto. Mi piace molto perché ai tempi di Beraluccio, Rocco Hunt fece secondo me una grande opera d'arte. E, solo per me è un po' troppo attuale, è molto attuale visto il momento contingente, certo. Perché parla della guerra, parla e purtroppo Lucio ha sempre precorsi tempi, ha sempre avuto questa non lo so, questa intuizione, in questo caso un'intuizione grave, un'intuizione che è legata a quello che sta succedendo nel mondo. E io adesso credo che proprio nel segnalare anche il fatto che la mia famiglia anche oggi abbiamo ripreso parte di questo brano, proprio perché lui apre dicendo basta sangue, e credo che sia il pezzo più centrato in questo momento difficile. Sul quale noi siamo assolutamente a condividerlo e a sostenerlo. E questa operazione di Beraluccio è stato un'idea di Marcello Balestra nel 2015 e prodotto assieme a Franco Godi, il maestro del rap italiano, e abbiamo collaborato con lui e lui ci ha dato una mano a pubblicare questa, che è un'opera che credo abbia solo purtroppo anticipato un po' troppo i tempi, però ha riunito, ha fatto una cosa che non succede mai, 8-9 rapper o 10 che si sono dati disponibili a lavorare su brani di Lucio con un grande entusiasmo. E io mi ricordo che a una serata al Forum di Assago addirittura si sono cimentati in un medley che per una cosa che non esiste, però io mi ricordo una frase di Clementino che mi ha guardato e mi ha detto: uè Daniele, guarda che Lucio è una cosa seria. Ah, sì. E lì niente, abbiamo fatto questa cosa, è stato il primo album che abbiamo pubblicato dopo la morte di Lucio, ed era un riconoscimento e un'apertura nei confronti di una generazione che lo conosceva poco. Infatti fra il pubblico al Forum qualche ragazzino chiedeva alla mamma: ma chi è Dalla? E ascoltiamoci Solo per me. Questo è Game On featuring Lucio, naturalmente. Adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno in piedi. Col telecomando in modo distratto salto di canale in canale, ma sullo schermo piatto ho quasi fatto l'abitudine a quest'impetudine, con TG barato la mia solitudine. Ho la testa nel piatto ed ascolto con poca attenzione La guerra non è interessante, sta in televisione. Lo è ancor meno quest'ancor me che è truccato con sei strati di cerone e parla del sangue senza passione. Fratelli con la stessa carne ma messi si contro. Esplodono a brandelli le libertà per il mondo. Immagino se lì ci fossi io che dal dolore mi nascondo, coprendomi con le cose che compro, rifletto. E se capitasse a me adesso, se avessi una pistola alla tempia per ciò che penso, ho dato per scontate cose che non hanno prezzo. Per chi è libero, che c'è di più violento del silenzio? Religione, pelle, sesso, l'odio vuole dei colpevoli, colpisce i deboli, senza saluti o convenevoli. No, non posso più restare zitto, l'universo mi giudicherà per quello che ho cantato e scritto. Lo schermo in modo distratto e scatto da sito a sito sopra il mio lato. Qualcuno in bacheca in preda alla sua furia cieca promuovo una crociata in nome di chissà che drappo. Il male sulla punta della lingua si arroventa in bocca, si affila tra i canini e gli incisivi, si cova, si nutre fino a quando non scoppia, si dissimula fino a che non ci tocca. Piccoli borghesi dagli abiti dignitosi in attesa di un mostro da giudicare, contro cui sfogare gli istinti più bassi e i pareri più disgustosi. L'uomo goda a dare agli altri la colpa e la sua psicosi, perché incontrarti è la mia soluzione, non per odiarti né per darti la soluzione. I gesti valgono un milione di parole, miliardi di persone camminano sole. Poi viene e anche una voce eccezionale, devo dire, cioè in effetti quando tu mi hai detto in quella canzone c'è uno strumento che non esiste più, in effetti è la sua voce. Anche qui ahimè sono le 20 e dunque dobbiamo terminare questa puntata. Dimmi Leonardo. No, ne parlavo, accennato un attimo prima Daniele, volevo fare un ricordo intanto di Renzo Cremonini, che era un po' come la mamma di Lucio, no? Che morì in funerale, mi ricordo che fu quando proprio il giorno che caddero le torri gemelle di New York. E poi l'altro, il babbo, che è Tobia, Umberto Righi, che è sempre io. E domani c'è la messa a suffragio, non so se ama che si dica o non si dica, comunque di solito diciamo, il primo marzo alle ore 10, chiesa di San Domenico. Ecco, mi odierà Tobia perché è no. Per quello, però ecco, Tobia è sempre, e forse no, è tutelato sempre comunque Lucio. Che, Lucio è Lucio perché. Che lui lo chiamava Tobia. Il creativo, no? Quindi. Lucio è Lucio perché c'era. E sono molto affezionato a Tobia. Sono contento perché abbiamo parlato di Lucio e all'Ambra. Sempre al presente. Al presente, certo. Ma lui è presente in quelli no, che. In effetti, devo dire che anche per quel che mi riguarda, appunto, non avendolo conosciuto, però avendolo. Cioè, avendolo amato, soprattutto io mi ero innamorato di Dalle De Gregori quando avevo 8-9 anni, quando hanno fatto il concerto insieme, ma assolutamente innamorato di questa cosa. E in effetti. E lui è un artista poliedrico, cioè, ha fatto l'opera, ha fatto le musiche. Faremo l'opera. Quindi vedi. Faremo l'opera perché nel 2023 uscirà una commedia musicale. Wow, questa fatta, è bella. Fatta, ispirata al mondo, a Lucio Dalla, alle sue musiche, e basta. Beh, ne parleremo nel 2023. Infatti, bella anticipazione. Esatto. Bisogna che lasciare qualcosa, no? Daniele, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto. Ringrazio voi. E naturalmente, appunto, ti do appuntamento l'anno prossimo per altri appuntamenti che riguardano Lucio. Solo con Leonardo, Solo con Leonardo. Io ormai siamo una coppia indissolubile. Quindi io Leonardo Santoli, ti ringrazio anche te tantissimo. Già la seconda volta che vieni qua a parlare. Di solito parliamo d'arte, ma questa volta parliamo di Lucio, che insomma che arte. È arte anche lui, che assolutamente. Lui è una persona davvero un genio, cioè, prendendo anche spunto dal geniale, è una persona che ti squadrava in tre secondi, no? Lui già ti vedeva con gli occhi così e. Intuitivo e che dire nell'arte Lucio Dalla. Io vi lascio con Che cos'è Bonetti, che secondo me è uno dei pezzi più belli in assoluto, in cui la voce è veramente spettacolare. Una volta l'ho fatto sentire a un mio amico a Londra, lui sudafricano amante del jazz, è rimasto completamente estasiato da sto pezzo, che presumo non conoscano in tanti, cioè adesso magari gli amanti di Lucio sicuramente, ma forse i nostri ascoltatori comuni magari no. Io ero Stefano W. Pasquini, questa era Coxo Spaziale, stasera abbiamo parlato di musica, io ringrazio tantissimi i miei ospiti Daniele Caracchi e Leonardo Santoli, e naturalmente vi do appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 19, sempre su Radio Città Fujiko. Senti un po' qua. Watch your solo, Cabernet, yeah. Yeah, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.